RadioTube Social Network. Allora, seconda ora di RadioTube, la prima quella di RadioTube Social Village, è stata un'ora piena di musica, perché abbiamo avuto l'opportunità, la gioia di parlare di Francesco Guccini e di sentire cosa ha raccontato ieri Francesco Guccini a Bologna. Abbiamo avuto ospite Colapesce, che è uno che a me piace veramente tantissimo. Abbiamo avuto Claudio Trotta, grandissimo organizzatore di concerti, ma come dice Bruce Springsteen, lui ha i suoi fan, he has his own fans, e la sua storia è straordinaria. E poco fa abbiamo parlato anche di Asterix, che piace ancora grandi e piccini. A questo proposito qualcuno mi ha scritto: Asterix è belga, non francese. Mi è venuta una crisi esistenziale, ho detto oddio, ho detto una scemenza, ho controllato. No, io ho detto che gli autori sono francesi, quelli di oggi, eppure quelli di ieri, perché Goscinny e Uderzo, me lo ricordavo bene, erano entrambi francesi. Quindi, adesso che sono più tranquilla, che non ho detto una scemenza e quindi ho controllato per bene, sì, è stato pubblicato in Belgio, ma gli autori erano comunque francesi, posso tirare un sospiro di sollievo e dare il benvenuto al conduttore della seconda ora per questo sabato. Io l'ho corteggiato in lungo, in largo, però lui abita fuori Milano, abita a Torino, ma adesso deve stare tutti i sabati pomeriggio a Milano e non scappa, e quindi l'ho fatto arrivare dalla Rai, e tanto la distanza è pochissima in linea d'aria dalla Rai a Radio 24, e siamo vicini a Milano, direttamente da TV Talk, Sebastiano Pucciarelli. Ciao Sebastiano. Buon pomeriggio Marta, buon pomeriggio a tutti. Allora, sarò Sebastiano, il tuo toy boy. Oh, che meraviglia. Così mi fingo giovane, dico questo solo finalmente per... nelle mie grinfie. Allora, intanto com'è la radio? Non sei abituato tu? No, io lavoro dentro un altro elettrodomestico che non è il microonde, che non è la lavatrice, che faccio poco, che è la televisione, TV Talk è appena finito, una mezz'oretta fa. Io ho corso velocissimo, diciamo. Beh, così. Vicino, dai, è vicino, sì, è vicino. Sì, pochi metri. Allora, Sebastiano, parliamo un po' di TV e di rete in questa puntata. Beh, allora, a RadioTube parliamo sempre dell'attualità della rete e dalla rete. Approfittando della tua presenza, parliamo magari un po' più di TV rispetto alle altre puntate, perché, insomma, rete e TV sono molto permeabili, molto molto permeabili. Ogni notizia che passa dalla TV ha una grande eco in rete. Allora, io ho scelto la notizia della settimana. Temi di sapere, poi mi dirai se anche per te è una notizia importante. Allora, Piazza Pulita, Corrado Formigli, aveva ospite, si capisce subito dalla voce, ecco qua. Diciamo che l'avevamo deciso da un po' di giorni, però oggi abbiamo ulteriormente dialogato e andremo contro Fazio la domenica sera. Oh, guarda, questa è una notizia assoluta anche per me, non ne sapevo niente proprio. Domenica sera contro Fabio Fazio. Bella impresa, bella idea. Ma senti, sai, io in fondo voglio dire, la domenica c'era chi non mi voleva far parlare e mi ha costretto ad andare da un uomo qui a un posto dove si fa la... Io sono un uomo libero, lo sono sempre stato, e credo nell'informazione libera, di destra o di sinistra, marcata, non mi interessa, ma che sia libera e rispettosa delle idee altrui. Qualcuno mi ha impedito di raccontare il paese, mi ha proposto qualcosa che non potevo per dignità accettare, e allora credo che la domenica, che era un giorno che per anni io sono stato la domenica, sia oggi forse il momento vero. Ci tagliamo la maschera, certo, è Davide contro Golia, però nella vita bisogna aver coraggio. Io credo che sia giusto continuare a raccontare il paese proprio la domenica. Allora, caro Sebastiano, Massimo Giletti, tutta estate si è parlato, che sorpresa. Allora, è una notiziona questa, Televisivamente è una bomba. Televisivamente sì. Hai visto, persino Formigli era sorpreso, perché tutti pensavano che lui andasse il mercoledì. Perché il mercoledì? Perché il mercoledì non ci sono grandi altri talk politici in prima serata, perché era il posto di paragone, come dire, un piccolo populista. Adesso che abbiamo l'arci populista, io sono grande fan di Giletti. Adesso che abbiamo l'arci populista, adoro. Mettiamo lui. Invece, sorpresa, la domenica sera contro Fazio, vendetta servita tiepida? Sì, abbastanza calda, ancora caldina, sì. Secondo me. Cosa diciamo di questo Fazio? Perché, allora, l'estate, in rete, le polemiche a non finire, l'esordio con grandi aspettative. Ma va bene, va male, che cosa dobbiamo dire, Sebastiano? Non è facile, eh? È molto complicato giudicarlo. C'era un pezzo interessante di un ex direttore generale della Rai e di Rai Fiction come Sacca, che sosteneva, partendo da quelli che sono i costi della fiction, perché la domenica prima di Fazio c'era la fiction, la fiction ha un costo per minuto molto alto, che anche uno show come Fazio non ci si avvicina neanche lontanamente. Cioè, costo per minuto significa che ogni minuto di trasmissione è come il prosciutto al letto. Esatto. Ha un costo. Esatto, la fiction costa molto, perché location, attori, regia, costumi, eccetera, eccetera. Un programma in cui tutto sommato c'è una persona che intervista un'altra persona, è certo, ha la scenografia, ha la regia, eccetera, eccetera, però non è paragonabile. Neanche se è il più pagato di tutti? Neanche se è più difficilmente, anche perché poi lo stipendio di Fazio l'abbiamo visto, è pluriennale, non arriva ai 2 milioni all'anno e quest'anno fa più puntate. Dopodiché io a questa parte sono relativamente interessato. Io credo che anche la RAI, che è l'azienda per cui io lavoro principalmente, cosa che forse gli ascoltatori dovrebbero sapere per onestà, credo che dovrebbe fare più una battaglia sui contenuti. Sono d'accordo. Perché è vero che è un'azienda mista che si nutre sia di canone che di pubblicità ancora. Però secondo me difendi il tuo prodotto quando lo difendi dal punto di vista di una qualità di contenuti. Se inizi a discutere, ma prendo tanto perché faccio tenere tanto, nel momento in cui prendi un po' di meno ti bastonano, ti flagellano. È e questo è un po' rischioso. Pubblico. E questo poi sì. Cioè, la BBC pubblica tutti i compensi di tutte le principali star. Ci sono persone che prendono molto di più di Fabio Fazio. E nessuno dice nulla, perché vanno a vedere poi i risultati che portano, vanno a vedere il tipo di prodotto che portano, e va bene così a tutti. Però qual è il problema? Che la BBC è un sistema di servizio pubblico puro, che si nutre solo di canone. Quando la RAI diventerà, come io auspico, prima o poi, se mai succederà, solo di servizio pubblico puro, solo di canone, allora sì che potremmo fare qualsiasi battaglia culturale, qualsiasi difesa di prodotto sulla base del prodotto e basta, senza dire prendo perché faccio fare tanto incasso pubblicitario. Poi un giorno pubblicheranno anche gli stipendi di Pucciarelli, certo. Cioè, veramente TV Talk proprio implode. E l'idea di fare una rete senza pubblicità, tu come la sì, vedi? Sì, un vecchio progetto, potrebbe essere una strada, sicuramente potrebbe essere. In Spagna mi sembra abbiano fatto così, la prima, la TVE, la TV spagnola, ecco, vedete, senza pubblicità. Io solo temo una cosa, se mai succederà questo, che diventi un alibi per fare prodotti molto di nicchia, molto, cioè la sfida vera di qualsiasi servizio pubblico è riuscire a fare cose di qualità che però cerchino di raggiungere tutti e di parlare a tutti, cioè di non diventare snob anche quando fai un prodotto dignitoso, qualitativamente importante. È una cosa difficilissima. Allora, il sabato, ieri sera è andato molto bene Tale Quale Show, che sì, io adoro, vabbè, ma io sono pazza di Carlo Conti, vabbè, lo sanno tutti, da tempi non sospetti, quindi ieri sera ero davanti a Tale Quale Show ipnotizzata, perché secondo me è grande. Invece sto Celebration non mi ha proprio convinto. Sabato sera, quindi, Serena Rossi, Neri Marco Re, ascolti. Stanno facendo fatica anche loro dal punto di vista degli ascolti, sgombriamo il campo serenamente. Sono, credo, l'ultimo sabato erano sull'11%, 11 e poco, a fronte di un canale 5 con Tusi Chevales che faceva, che li ha doppiati, più che doppiati, 26,8%. Accidenti. Con 5 milioni contro i 2 milioni e 4 di Celebration. Lo so, io pensavo che una cosa, anche lì è un prodotto per molti versi anche nobile, come a livello di regia con Duccio Forzano, a livello di scelte autoriali, forse troppo sofisticato per il sabato sera? Cioè, non puoi passare da un estremo all'altro, da prodotti iperpopolari a prodotti che forse andrebbero bene per Rai 3, cioè completamente spostati da un'altra parte. Forse devi passare attraverso, non so, vuoi fare un prodotto così, allora ci metti a condurlo Fiorello, ci metti Giovanotti, sì, ci metti Conti, sì, ci metti sì. Fazio, cioè ci metti qualcuno che possa traghettare un pubblico anche più popolare. Darlo a due bravissimi professionisti, ma forse un po' minori rispetto al pubblico del varietà del sabato sera di Rai 1, come Serena Rossi e Neri Marco Re, due virtuosi che sanno imitare, cantare, recitare, forse mia madre, mia zia non li seguono fino in fondo. Il prodotto già è un po' alto, i conduttori non sono i più nazional popolari dell'universo. Sulla fiction, secondo me, invece, questa operazione è riuscita anche a Rai 1. Cioè non personaggi di punta, ma storie che sono riuscite a conquistare il pubblico. O storie che riescono a conquistare il pubblico perché sono molto forti, molto, molto appeal popolare. Oppure, se fai una cosa un po' più ambiziosa, però mettici la faccia nota. Mettici Lino Guanciale che arriva da... Lino che Guanciale Dio ci aiuti. Che fa proprio ormai... Esatto. E allora puoi fare la Porta Rossa. Mettici Alessandro Preziosi a fare Vito Zagaria, che è quello che faceva Elisa di Rivombrosa. E allora puoi fare anche una cosa che è un po' una piccola Gomorra di Rai 1, come questo sotto apertura del lunedì, che io sto apprezzando, per dire, fiction di cui si parla meno perché sono meno cool magari dell'ultima cosa di Netflix o di, certo, o di Sky Atlantic, che però sono dei prodotti in cui la RAI riesce un po' a innovare, però traghettando sul pubblico popolare. Allora, abbiamo fatto un ragionamento molto interessante, preparato Sebastiano Pucciarelli. Allora, ma se avete anche qualche domanda, 349-238-6666, sms, whatsapp, noi siamo qua. Traffico, e poi parliamo ancora di TV, ma anche di social network, insomma il nostro pane, il nostro core business, a tra poco. Radio Tube Social Network. Stavamo chiacchierando adesso durante il traffico, ci siamo distratti, non abbiamo sentito il traffico, quindi poi quando dovrò prendere l'auto magari rimarrò imbottigliata, colpa mia. Rimarrai, perché qua intorno c'è Juve Milan e io per arrivare qua ho dovuto fare salti acrobatici. Oh cielo. Dicevamo che sì, i discorsi sulla televisione sono a volte discorsi per appassionati, per studiosi, però è un tema che interessa anche un pubblico più vasto, perché TV Talk ad esempio è seguito da pubblici, a parte che va molto bene, gli ascolti sono sempre, è un prodotto veramente di qualità, ma anche di ascolti. Però mi hai fatto sorridere poco fa perché dicevi è un po' come il calcio, cioè TV Talk è la domenica sportiva della televisione. O il processo di Biscardi, non lo so. Ah, un Buffa saluto, racconta. Un pensiero ad Aldo Biscardi. Ad Aldone che da lassù ci guarda. Beh sì, perché di fatto soprattutto la nostra generazione, Marta, siamo quasi coetanei, possiamo svelarlo. più o meno. Cioè, siamo nati immersi, ma di pochissimi giorni credo, siamo nati immersi nella televisione, cioè anche nella neotelevisione, quindi nei vari canali, nella moltiplicazione, non solo il monocanale Rai 1, ma già poi Rai 2, poi presto le televisioni commerciali, almeno io sono nato fine anni 70, quindi quello è. Certo. E quindi di fatto siamo stati esposti da subito a un sacco di televisione, abbiamo memoria di questa cosa, l'abbiamo sempre commentata, abbiamo i nostri beniamini, abbiamo le figure che detestiamo, leggiamo di ascolti che calano come mannaie su alcuni personaggi e così compensi più o meno scandalosi, cioè di fatto ci appassioniamo al dibattito politico come ci appassioniamo al calcio, e siamo un popolo di 60 milioni di allenatori della nazionale e di 60 milioni di Aldi Grasso. Sì, è vero, di Aldi Grassi. Allora, TV, ma non più solo TV. Io ti faccio un esempio. Secondo me il personaggio che in questi anni è riuscito a intercettare meglio l'incrocio tra i vari mezzi è Fiorello. Insomma, gioco facile per la sua notorietà, però ha sperimentato la TV via Facebook, la radio via Instagram, la TV via Periscope, le ha provate tutte, poi è arrivato all'Edicola Fiore e questo invece è il suo ultimo esperimento. Mi arriva una lettera dalla Westin Production firmata da lui, Harvey Weinstein. Cioè lui non poteva accettare che un signor nessuno come me avesse detto di no. Allora lui racconta il suo incontro o scontro con Harvey Weinstein nel suo esperimento online, di radio online, Il Socialista. Adesso ha annunciato che avrà anche una finestra in un'altra radio, che io cito perché sono amici, Radio DJ, ma sì, ma poi insomma alla fine ci vogliamo molto bene, noi siamo superiori. Possono funzionare questi nuovi mezzi? A te incuriosiscono, Sebastiano? Beh, sicuramente mi incuriosiscono e dovrebbero incuriosire tutti, ed è interessante comunque che un veterano, perché ormai quello è, come Fiorello, abbia voglia di applicarsi, di provare, di sperimentare queste cose qui. Poi non tutto riuscitissimo, le formule vanno ancora un po', come dire, oliate, ingranate, non so se l'appuntamento, lui astutamente va alle 13 su Facebook, che è un po' l'orario credo della pausa pranzo di tanti uffici, che forse l'ha anche dichiarato, che il tentativo è quello. Quindi è interessante vedere come forse per i social network, almeno quello, forse il vero prime time, come per la radio tu mi insegni la mattina, è no? Il drive time abbiamo noi. Esatto, forse per i social network e per la forma di intrattenimento in diretta social può essere alle 13, la pausa pranzo in ufficio, che è interessante. Sai io cosa mi sono divertita recentemente? Una sera c'era il Grande Fratello VIP, altro grande successo della stagione, e c'era un mio amico che lo commentava con altri amici, tutti giornalisti di gossip, insomma, a casa con la diretta di Instagram. Adesso c'è una novità che a me incuriosisce moltissimo, che è una diretta di Instagram con ospiti. Secondo me potrebbe dare delle grandi soddisfazioni. Voglio saperne di più. Ci colleghiamo con Vincenzo Cosenza, chiocciola Vincos. Il suo blog è vincos.it. Gli ascoltatori di RadioTube già lo conoscono perché è stato già nostro ospite. Insomma, lui sa tutto di questi argomenti. Buonasera, Vincenzo. Ciao, buonasera. Allora, questa storia della diretta con ospiti è una roba bellissima, potenzialmente bellissima. Beh sì, è una novità di Instagram di qualche giorno fa che semplicemente permette di andare in diretta e poi, premendo un tastino, di aggiungere uno dei propri amici alla diretta. Lo schermo si divide in due e a quel punto si può giocare e essere in diretta. Pensiamo a un faccia a faccia di Minoli formato Instagram, potrebbe essere un esperimento interessante. Oppure io metto a commentare una trasmissione televisiva e invito Sebastiano e facciamo un commento in due su una trasmissione televisiva in diretta Instagram mentre va in onda o durante le pause pubblicitarie appunto di una trasmissione, e potrebbe essere esatto. Uno spin-off casalingo, o più o meno, perché dipende da chi lo fa, perché ci sono anche appunto personaggi come Fiorello che utilizzano le dirette Instagram per fare anche della social TV. Sì, potrebbe essere sia complementare al programma televisivo, quindi organizzato dallo stesso network televisivo per far rimanere incollati al teleschermo i propri ascoltatori, oppure potrebbe essere pensato come una sorta di controprogrammazione da casa a casalinga. Beh, non è male, interessante. È interessante come interazione. Interessante anche, non so se il nostro ospite lo sa, cioè perché Facebook, che è proprietaria di Instagram, testa questa cosa su Instagram e non su Facebook stessa, dove i live di Facebook invece sono usatissimi, utilizzatissimi, fanno già centinaia, in alcuni casi milioni di visualizzazioni. Cioè è un modo di entrare di soppiatto, in punta dei piedi, un modo di lanciare ulteriormente Instagram, boh. Tu infatti, sai Vincenzo, tu l'hai scritto prima di Facebook. Sì, ma diciamo che sì, prima di Facebook in realtà, quindi molti esperimenti Zuckerberg li sta proponendo soprattutto su Instagram, proprio perché Instagram ha un pubblico molto più giovane rispetto a Facebook, probabilmente anche quello più adatto a cogliere delle novità come questa. Più ricettivo, dici, beh, ci sta. Però sì, anche perché questa novità si presta anche a, diciamo, attività molto più ludiche, quindi fare due chiacchiere con gli amici e farsi vedere dal resto degli amici. Sì, quindi diciamo gli studenti che molto... il pomeriggio avranno un motivo in più per cazzeggiare e non fare, esatto. E non fare i compiti, perché potranno fare, vabbè, come l'invidio. Io se avessi avuto i social network non mi sarei, non dico laureata, manco diplomata. Non saresti qua. No, sarei ancora alle medie, ragazzi. Allora, facciamo una novità fondamentale questa settimana nei social network. Io la vorrei introdurre con questo brevissimo audio dai The Jackal. No, vabbè, bellissimo. Senti, comunque, ti volevo dire, ti va se quando esce Dio fu tutti i musi verdi noi andiamo... Non mi piace. Lo rifaccio. No, vabbè, bellissimo. Senti, comunque, ti volevo dire, ti va se quando esce... Esce. Cazzo. No, vabbè, bellissimo, mi fa proprio scompisciare. Vabbè, anch'io rifaccio le note vocali quando mi incastro. Questi sono i The Jackal, che promuovono il loro film, che uscirà prestissimo, Addio a tutti i musi verdi, dimostrando che spesso non è vero che fare una nota vocale è più immediato che non fare un messaggio via WhatsApp. Ma Vincenzo, cioè questa settimana c'è una grandissima novità per WhatsApp. Cioè la possibilità di cancellare i messaggi inviati per errore, ma come funziona? Beh, il funzionamento è simile a quello che accade adesso con alcune email, per esempio le email aziendali, cioè la possibilità di richiamare un messaggio entro 7 minuti dall'invio. A quel punto, se il destinatario non l'ha letto, non lo leggerà mai, non lo vedrà mai, quindi scomparirà dalla sua diciamo dalla sua inbox, e quindi questo potrebbe, insomma, risolvere la vita di molti, perché diciamo che gli errorini su WhatsApp li hanno fatti in tanti. Beh, sì. Sbagli destinatario. L'errore classico, io ho un paio di amici che l'hanno fatto ed è veramente brutto: parlare male di una persona e invece e mandare il messaggio a quella persona. Dottor Freud. Quello, però se questa persona non l'ha visto, quindi non appare la doppia spunta blu, ma poi ci sono quelli che tolgono la doppia spunta. Che brutta cosa, ma che brutta cosa. Ma cosa che brutta problema. L'unico grande problema, Marta, è che purtroppo colui che invia il messaggio non potrà mai sapere se effettivamente è stato cancellato o meno, se è riuscito nell'impresa oppure no, non abbiamo una notifica, diciamo, che ci avverte di questo. E quello, quindi, è fondamentale, però, cioè sapere se la bomba è stata disinnescata o no. Esatto. Non lo so. Questo rende WhatsApp ancora più piccante e interessante. È una roulette russa, ragazzi. È una roulette russa. E Vincenzo, grazie per questa allora non sono del tutto esatto, non sono del tutto sicura. Questo è il classico: ho mandato un messaggio e poi mi sono pentita, lo cancello. Diciamo che questa finestra dei 7 minuti, se queste cose, questi errori che vengono spesso commessi di sera, magari potrebbe essere che lo rimedia. Sera dopo il secondo bicchiere. Esatto. Ma non possiamo fare, scusate, come fanno alcuni politici, figure dello spettacolo, quando gli parte il tweet discutibile di cui si pentono, che dicono: no, ma mi è stato hackerato il profilo. Esatto, mi è stato hackerato. Questo, hackerato il profilo, rubato il cellulare, quella roba lì. Ragazzi, vabbè. Il cane mi ha mangiato i compiti, quello. Ci proviamo. Grazie a Vincenzo Cosenza, grazie. Vincos.it, grazie Vincenzo. Ciao. Allora, Sebastiano, dobbiamo continuare a fare attenzione a questo punto con i WhatsApp, non c'è niente da fare. Non ci salviamo. Allora, io adesso, tra poco, ti voglio portare in un mondo di YouTuber, perché noi andiamo spesso a curiosare, tu ti occupi appunto di TV, però ci sono dei format interessanti che stanno nascendo anche su YouTube. C'è uno che mi ha colpito molto questa settimana, ho fatto una scorpacciata di video. Allora, tra poco conosciamo Nicolò, che è giovanissimo e ha avuto un'idea veramente travolgente. Tra poco, pausa, e poi saremo ancora insieme con RadioTube. La natura di prima mano vi presenta RadioTube Social Network. E rieccoci con questa puntata di RadioTube Social Network, che ha come co-conduttore d'eccezione, io lo adoro, sono riuscita a strapparlo a TV Talk, vabbè, ma è finito mezz'ora prima dell'inizio di RadioTube, ha avuto il tempo era di arrivare facile, fino un po' trafelato. A qua. Sebastiano Pucciarelli. Eccomi. Allora, Sebastiano, abbiamo parlato parecchio di TV, perché insomma ci appassiona entrambi, ce ne occupiamo entrambi, però insomma, sai, io ho due nipoti che quando tornano da scuola, uno fa la terza media e uno fa la quarta liceo, quando tornano da scuola, prima di fare i compiti, non accendono la TV come facevamo noi. No, loro prendono il telefonino e guardano gli YouTuber. Allora, voi che vi occupate di TV, a TV Talk, guardando, che sguardo avete su questi fenomeni nuovi? Devo dire che magari singolarmente ci appassioniamo, ci interessiamo, guardiamo, raramente ne facciamo poi materia di discussione, perché ci accorgiamo che il pubblico della televisione, anche nostro, tendenzialmente maturo così, segue e si appassiona fino a un certo punto. Lì, okay, veramente c'è un gap generazionale, c'è una frattura difficilmente sanabile, cioè... E la controprova, se posso permettermi, è che difficilmente poi questi YouTuber riescono a fare un salto proficuo alla televisione. E anche, c'è anche però il problema tutti... che spesso in televisione non li sanno usare bene. No, verissimo. Però tutti i migliori, da Jack alla Terzo Segreto di Satira, mm-hmm, altri 10, The Pills, hanno provato, hanno fatto le loro esperienze televisive, a volte anche gustose, godibili, eccetera, però poi la cosa si è fermata lì. Rimangono allora, due mondi difficilmente comunicanti. Sì. Infatti a me piace parlarne, perché una volta mi piace dare delle istruzioni per l'uso. Allora, un po' ci sono i ragazzi molto giovani, magari i loro beniamini scrivono, sono ospite in radio, sono molto contenti di ascoltarli, però ci sono anche i genitori, gli zii, che scoprono veramente un mondo nuovo. Io mi sono appassionata recentemente dei video di un ragazzo che io trovo bravissimo, che ci porta in un sacco di posti, perché è uno YouTuber di viaggi, ma ci porta anche in luoghi molto particolari in un format che lui ha inventato nel suo canale di YouTube. Ascoltiamo un po', anzi vi mostro alla radio, come dicevamo quando c'era Daniele Bellasio. Ciao Daniele, che ci ascolta sempre. È ancora vivo, sì. No, sì, c'è, è ancora vivo, ancora vivo. Non essere geloso, Daniele, scusami, giuro che non sto allungando le mani. Daniele è sempre un po' geloso, però si è trasferito a Roma. Allora, come dicevamo con Daniele Bellasio, vi mostriamo alla radio un brevissimo estratto di questo format molto gustoso di Human Safari. Ciao grandissimi e benvenuti in questo nuovo episodio di Italia Abbandonata, lo special di Halloween. Ci troviamo in un posto veramente molto interessante che morivamo dalla voglia di esplorare. Ci troviamo infatti a pochissima distanza dal manicomio abbandonato di Mombello e sempre all'interno del comune di Limbiate c'è la location che andremo a vedere oggi. Si tratta di Grilland, chiamata anche Città Satellite, un luna park abbandonato alle porte di Milano. Allora, adesso ci troviamo all'interno del Bar Katanga, ristorante e pizzeria, cioè qua l'insegna. Penso fosse una sorta di locale tipo a tema western, perché ci sono le ruote dei carri sul soffitto. Del bar comunque, come potete vedere, è rimasto ben poco, però ci sono delle bottiglie che sono ancora intere. L'esplorazione di luoghi abbandonati, parchi di divertimenti, appunto un ex manicomio, un albergo abbandonato da molti anni e non lo so, io avrei molta curiosità ma anche molta paura e quindi sono contenta di vedere questi esploratori che vanno e ci mostrano tutto. È davvero un format di ottimo livello. Lui è bravissimo, l'ideatore è giovanissimo e si chiama Nicolò Balini, Human Safari, e l'abbiamo in diretta con noi. Ciao Nicolò. Human Safari è qui. Eccolo. Human Safari. Vabbè, giovanissimo e con un'idea fulminante. Allora, non solo fare video di viaggi, che è un po' il tuo mestiere, perché comunque tu ti occupi di viaggi, di famiglia, no, diciamo. No, è proprio il mio mestiere. Ecco, ma anche questo format dell'Italia abbandonata, come ti è venuto? Io sono impazzito, me li sono guardati tutti questa settimana. Bene, l'anno scorso, 2 anni fa, mi era capitato di fare un progetto su un altro canale dove dovevamo fare uno shooting all'interno di questo manicomio abbandonato. Sono entrato e ho detto, ostia, bellissimi questi posti, se ci sarebbe da vederne altri. Mi sono informato, ho visto che in Italia è pieno di posti abbandonati che vengono lasciati così a marcire, tutti fanno finta di niente, burocrazia, lascia le cose così, pericolanti, ci vanno dentro i bambini a giocare, ci vanno i tossici, ho detto perché non andare anch'io a fare video. Beh, è pericolosino, Più di pericolosino. Ecco. E lo rivendica con orgoglio. Con orgoglio, perché beh, insomma, quello che facciamo di certo non è una cosa da persone intelligenti, perché siamo abbastanza... spericolati, come si dice in porti, rete, infatti... Don't try this at home, non provate a farlo, sì, a casa. Poi, vabbè, ecco, ovviamente io lo dico di non andare a vedere questi posti qua, ma non ho l'autorità di dire io sono un professionista, voi no. Alla fine ogni paese c'ha i suoi posti abbandonati, i ragazzi vanno a vederlo. Anche dove abito io ci sono un sacco di ragazzini che mi dicono entra lì che è bellissimo, e dico ragazzi, se ci andate non dite che l'avete visto nei miei video, sennò mi arriva una denuncia. Istigazione a delinquere. Sì. Esatto. Tu hai un sacco di iscritti. Però è una cosa che mi piace molto. Hai tantissimi iscritti. Sì, cioè per la media di YouTube non è che siano poi così tanti. Diciamo che sono felice di quelli che ho perché mi seguono con piacere, e soprattutto è un pubblico intelligente, non di... di bambini, cioè c'è anche gente alla mia età, gente più grande, soprattutto gente più grande. Quanti anni hai tu? Io ne ho 26. 26 anni, mamma mia. Sai che sto controllando in questo momento quanti iscritti hai, eh? Guardiamo quanti iscritti hai in questo momento. 556.865. Cioè 500.000 iscritti. Cioè dal punto di vista di un... ah no, c'è qualcuno che dice il plurale maiestatis. No, Nicolò non usa il plurale maiestatis. Ha una squadra con cui gira nei posti abbandonati. Con un gruppo di amici. Con un gruppo di amici. Sì, sì, no, non è prudente andare da soli, anche perché spesso facciamo brutti incontri, quindi insomma, se sei da solo sei più vulnerabile, soprattutto se vai in giro con un'attrezzatura molto costosa. Ecco, perché voi andate in giro, cioè, le riprese sono accurate, sono... droni, sì, una bella fotografia. Grazie. Musiche. Io non lo conoscevo, l'ho visto quando Marta mi ha detto che ne avremmo parlato, se posso inserirmi, e devo dire che c'è una cura e un'estetica molto forti che fanno un prodotto a una via di mezzo tra Zorro e The Walking Dead, tra PIF e Blair Witch Project, che secondo me è molto affascinante. E beh, ragazzo, quando tieni la camera in mano e filmi te stesso che parli, è un po' quell'estetica lì. Ah, o no? Sì, vabbè, non l'ha mica inventata lui, però. Beh, però diciamo, facciamo i riferimenti che tutti possono capire. Che conosciamo. Ah, sì, sì, sì. Quello. Vabbè, sì. Diciamo che è un nuovo modo di raccontare le cose, certo. Alla fine in TV c'è sempre quella visione un po' statica, YouTube e gli altri social sono belli perché danno l'opportunità di farsi vedere anche a persone normali, perché alla fine non è che io sono uno che ha studiato videomaking o che ha chissà che conoscenze che gli hanno permesso di arrivare a lavorare lì, semplicemente sono persone normali che vengono premiate quando sanno fare qualcosa. E questo non è poco, effettivamente, cioè quando hai l'idea giusta e sai fare delle cose in rete... Infatti a differenza della TV, YouTube è molto meritocratico, infatti ci sono un sacco di persone che riescono a fare delle cose straordinarie perché sono brave, sanno intrattenere, il tutto a titolo completamente gratuito, tu accedi ai loro canali e trovi persone che sanno dipingere, disegnare, suonare, cantare, un sacco di cose che magari in altri ambiti non avrebbero spazio. E credo che ai ragazzi piaccia molto anche per questo, cioè si riconoscono in loro coetanei o ragazzi poco più grandi che raccontano cose come potrebbero raccontarle loro. Nicolò, esatto. Prossime partenze, visto che appunto viaggi per tutto il mondo, prossime partenze? Allora, domani parto, ma ancora non posso dire dove vado perché c'è l'embargo fino al 1° di novembre. Okay. Poi vado in Islanda ad accompagnare un gruppo perché io organizzo viaggi con i miei iscritti. Islanda a novembre, freddino? Sì. Ma poi vado anche in Lapponia a gennaio e marzo, dove ci sono meno 32 gradi. Ma scusa, ma non è un problema. Mazza, ma con i tuoi iscritti, nel senso quelli iscritti al tuo canale YouTube o gli iscritti alla tua società o comunque all'azienda per cui lavori? Ma io non lavoro per nessuna azienda perché sono indipendente e sono iscritti al mio canale YouTube. Sì. Quindi vedi, riesci a portare poi anche nella vita reale, in viaggi reali, quelli che sono i tuoi spettatori, interessante. Ragazzi, sì, diciamo ragazzi che è una giovani. Cosa che è nata perché me l'hanno proposto, mi hanno detto in tanti, ci piacerebbe viaggiare con te, anche io voglio venire a fare viaggi con te. Buono, organizziamo, metto a punto dei tour assieme a un tour operator, ovviamente perché comunque io non ho l'autorità di fare certe cose, ci vuole una licenza, organizzano tutto, io li accompagno, andiamo a scoprire o posti che non ho mai visto, come in questo caso l'Islanda, oppure posti che conosco bene, come per esempio il Giappone. Gruppo vacanze Human Safari. Andiamo Sebastiano, sì, andiamo. Non è proprio un gruppo vacanze, è un gruppo, una via di mezzo tra un'avventura e una gita scolastica per persone molto più matte di me. Con limoni negli ultimi posti dell'autobus, ovviamente. Ok, veniamo anche io e Sebastiano allora. Perché dai, c'ho posto per il tour in Lapponia dell'anno prossimo. Fantastico. Siamo pronti. Arriviamo. Grazie Nicolò. Nicolò Balini, andate a cercare Human Safari su YouTube. Top. E soprattutto questi video sull'Italia abbandonata. Sono una bomba, sono veramente un format davvero originalissimo, a me ha appassionato moltissimo. Grazie Nicolò. Grazie, buona serata. Ciao. E buon viaggio per questo luogo misterioso. Scopriremo la prossima settimana. Allora, lo scopriremo su YouTube 17:45, traffico e poi torniamo insieme, abbiamo ancora un sacco di argomenti molto molto curiosi. A tra poco. Radio Tube Social Network. Allora, eccoci qua per l'ultimo spicchio di questo Radio Tube Social Network. C'è un ascoltatore che giustamente mi bastona, perché cos'hai ultimamente fatto dico stavolta, sempre cagnola. Io lo adoro. Io ho ogni tanto mi innamoro di un'espressione. C'era un periodo in cui dicevo sempre meraviglioso, fantastico, sono sempre io lo adoro. Occhio che è inflazionato, io lo adoro lo adesso so. Perché visto che greggio, giacchetti. Lo so, basta, devo cambiare. Ma sono una ragazza entusiasta, sono una ragazza entusiasta. Non tarpate le ali. No, esatto. Allora, c'era una cosa di cui parlavamo sempre fuori onda, che dicevamo tutti quelli che desiderano apparire in TV e di andare a lavorare alla radio, anche i giornalisti della carta stampata hanno sempre questo desiderio un po' di apparire. Il demone soprattutto rossa che si accende. Questa cosa che è proprio quando vieni riconosciuto, quando piace a tanti. Eppure c'è qualcuno che ha avuto il coraggio di dire basta alla TV, noi vogliamo farle un in bocca al lupo, eccola qua. Il mio Sky TG24 finisce qui, grazie davvero a tutti di cuore, e buon proseguimento, buon pomeriggio e buona fortuna. Allora, il video l'ha postato lei stessa su Instagram, è stato un po' ripreso da tutti i quotidiani oggi. Federica De Sanctis, conduttrice di Sky TG24, che lascia, va a lavorare nella comunicazione di una grandissima azienda. Ci vuole un po' di coraggio lasciare la TV per andare a fare... C'è una scelta assolutamente forte. Potrebbe essere un arrivederci, però, dai, lei è ancora lei è giovane. Brava. È vero che è uno dei volti storici di Sky TG24, però è anche vero che c'è il calciomercato. Mi viene in mente che, non so, Alessio Vinci, vi ricordate? Certo. Credo che adesso lavori nella comunicazione di Alitalia. Alitalia, non so se ancora, ma comunque lavora lavorato. Sì. Cioè, credo che siano anche porte girevoli. Poi, sai, se l'astinenza è troppo forte, puoi sempre tornare indietro. Alla base della sua scelta, come dire, è una scelta, credo, anche un po' spinta da alcune, da alcune decisioni aziendali di chiudere sedi romane e accentrare tutto a Milano. Infatti, hanno presentato i nuovi studi a Milano. Mm-hmm. Noi abbiamo provato a chiamarla, Federica, per farle un in bocca al lupo in diretta, ma giustamente oggi ha il telefono staccato perché si sta godendo una giornata libera. Di libertà. Beh, insomma, è una scelta appunto significativa. Allora, questa settimana c'è stato un altro episodio molto significativo della televisione. Ho paura. Io non so come, perché poi io le cose dico, ma sì, parliamone. Poi mi viene l'ansia, perché io poi in realtà sono un po' timida e certe cose mi imbarazzano un po', però proviamoci. Questa settimana, tu sì che vales, è successo, non lo so, proviamoci questo. Voglio cantarvi una canzone di mia patria dal profondo del mio cuore. Io ci credo, io credo. Cioè, lei stava suonando il kazoo. Quella specie di trombetta, fischietto. Sì, però non col... Col naso? No. Con le orecchie? Era una musica intima. Allora, diciamo esatto. Non sappiamo bene come. Fatto sta che aveva le mutande calate. Sì, sì, questo succedeva a Tu sì che vales sabato scorso, quando questa simpatica concorrente straniera, non ricordo di dove esattamente. Sarà stata americana, perché... No, però aveva un accento quasi un po' dell'est, adesso magari mi sbaglio, adesso non mi ricordo, l'ho anche visto, ne abbiamo parlato anche TV Talk poco fa. Dal profondo del mio cuore, dice lei. Io tra l'altro, io ho fatto delle indagini, conosco una ragazza nello specifico che suona il kazoo, e sostiene che sia tecnicamente impossibile, che quindi quello sia un fake. Pensa. E che dire, che dire. Allora, MG americana, perché infatti mi sembrava brava, un inno. Brava, vedi che hai l'orecchio migliore del mio. Sì, mi sembrava un inno. Sì, sì, quella è America Beautiful. Però magari poteva sembrare qualcos'altro. Poi sai, forse non so come sia appunto tecnicamente possibile intonare una melodia in maniera... E comunque la tua amica che suona al kazoo dice che non è possibile, che era un fake. Io devo dire, l'avevo vista brevemente su Blob questa cosa. Sono andato a vedermi il pezzo intero, perché dico parliamo nella TV Talk, cosa che poi abbiamo fatto. E devo dire che la cosa che ho trovato ancora più simpaticamente o non simpaticamente pornografica è tutta la preparazione. Cioè lei prima di abbassarsi questo tanga, peraltro, questo perizoma, lubrifica con la bocca lo strumento, lo scalda, cioè fa tutta una serie di operazioni che secondo me sono ancora più allusive, più wireistiche, più così simpaticamente inquietanti del gesto stesso. Ma serve per fare ascolti, nel Guarda, senso che secondo me alla fine Tu sì che vales... Però serve anche quello, nel senso che tu il 26,8%, i 5 milioni e quasi 100 mila li fai anche così. Poi è chiaro che se dall'altra parte fanno l'operazione invece un po' sofisticata, un po' filologica sulla musica, eccetera, è chiaro che vince quella che si infila il kazoo dove se lo infila, ecco. Esatto, anche se non è ci dicono che non è tecnicamente possibile, quindi chissà come l'ha suonato. Allora, bufala, fake news. Allora, video che diventano diffusissimi in rete dopo che vanno in televisione, invece la TV che diffonde in rete dei video per promuoversi. Ecco qua qualcosa che riguarda qualcosa che arriverà molto presto. Gomorra. Poi c'è no, sta a posto. Come ci si saluta a Napoli? Ci si saluta in tanti modi. Buongiorno. Saluto prima. Qui Ciro. Salutami. Ciro, quando salutava Pietro o salutava Donna Imma, era molto cordiale, dice buonasera. Buonasera. Che è un po' come dire buonasera, però lo dovete trascinare, lo dovete quasi buttare via, dimenticandovi delle finali. Buonasera. Buonasera, oggi. Buonasera. Ovviamente se saluta Jenny dirà sicuramente frate tappo. Oh fra tappo. Vuoi frate t'apposta? Tappo. Frate tappo. T'apposto, guardi. Tutto a posto. T'apposto. Sintonizzate l'orecchio sulla musicalità. Vuoi frate tappo. Vuoi frate tappo. Vuoi frate t'apposto. T'apposto. Tappo. Tutto a posto, su Vars. Ah beh, finisce effettivamente. C'era Cristian che mi diceva quando doveva entrare, perché doveva proprio finire così. Abbiamo ancora un minuto e mezzo. TV che sfrutta la rete per diventare, fammi dire questo aggettivo orribile, virale. Succede. Gomorra sta per arrivare, Suburra è arrivato. Cosa ne pensi? Suburra debole, molto al di sotto delle aspettative. Una pallida imitazione di romanzo criminale, Gomorra scritta male, recitata maluccio. La tocca piano Sebastiano girata, Pucciarelli. No, io avevo molte aspettative, l'ho trovata abbastanza debole, e so per altri versi che non è stata una lavorazione facilissima. Ecco, mettiamola così, un po' si vede. Accidenti. Saranno contente le mie amiche di Netflix. Esatto. No, con tutto l'amore per Borghi, per Giacomo Ferrara, questo giovane bravissimo Spadino. Però non è scritta bene, ragazzi. Vabbè, in adesso aspettiamo Gomorra. Su Gomorra puntiamo tantissimo. Adesso sì, non deludeteci, speriamo, con questo demo Gomorra speriamo. 3. Allora, è il momento di ringraziamenti. Grazie a Sebastiano Pucciarelli che abbiamo rapito da TV Talk. Grazie, torna, ti prego. Quando grazie vuoi. A Cristian Goldoni, senza il quale non va in onda niente. Grazie a Valeria Bernardi che questa settimana è stata con noi in regia. Noi ci ritroviamo sabato prossimo, sempre alla stessa ora, per Radio Tube. In diretta 2 ore. A presto!